in primo piano. Buongiorno a tutti. I giornali di oggi hanno quantomeno la caratteristica positiva di aprire con argomenti diversi. Tre fondamentalmente le scelte principali fatte dai giornali. Una è sull'allarme Cassa Integrati, una è sulle infrastrutture, sul piano infrastrutture del governo e sulle aperture dei nuovi cantieri. Il terzo, va detto con un certo coraggio e una certa discontinuità rispetto alle caratteristiche della stampa italiana, il Corriere della Sera apre con una notizia dall'estero: Darfur, arrestate il leader del Sudan. Cominciamo da Repubblica. Allarme Cassa Integrati, più 553%. La Cassa Integrazione, scrive Repubblica in prima pagina nel riassumere la notizia, travolge tutte le aree produttive. A febbraio è aumentata del 553% rispetto allo stesso periodo del 2008. Sono gli ultimi dati dell'INPS. Studio shock della Banca d'Italia, aggiunge Repubblica, sulla crisi economica, sempre più dura e pesante. Quest'anno il PIL potrebbe accusare un meno 2,6%. Per la Fed, la Banca Centrale Americana, la situazione economica è peggiorata a fine febbraio. Consumi, prezzi fermi, ma nessuno compra. Pensioni, Sacconi frena sulle pensioni 65 anni per le dipendenti pubbliche. Dicevamo il Sole 24 Ore sceglie invece il piano infrastrutture del governo. Il titolo d'apertura è cantieri per 16,6 miliardi. Il governo li promette entro 6 mesi, in lista il ponte sullo stretto. Leggiamo il breve riepilogo di prima pagina degli articoli all'interno. Un pacchetto di grandi opere, tra cui Ponte sullo Stretto, Salerno-Reggio Calabria e Terzo Valico Ferroviario Milano-Genova, cantierabili entro 6 mesi, con un investimento complessivo per 16,6 miliardi e che otterrà il via libera del CIPE nella seduta di domani. L'annuncio è stato dato ieri dal governo alle parti sociali nell'incontro a Palazzo Chigi. Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, chiede di rafforzare gli ammortizzatori sociali e al tavolo si è parlato anche della possibilità di estendere i sussidi ai lavoratori precari. Intanto peggiorano le stime di Banca d'Italia. Quest'anno il PIL, cioè la ricchezza prodotta dal paese, calerà del 2,6%. Dicevamo che il Corriere della Sera ha fatto la scelta inusuale per i giornali italiani di aprire con un tema di politica estera, riguarda appunto la richiesta della Corte dell'AIA di arrestare il leader del Sudan. Leggiamo il breve riassunto di prima pagina del Corriere. I giudici della Corte Penale Internazionale dell'AIA hanno chiesto l'arresto contro il presidente sudanese Omar al-Bashir. Le accuse: crimini contro l'umanità, assassinio, sterminio, stupro e crimini di guerra. È caduta invece l'incriminazione per genocidio. I giudici hanno ritenuto che le prove non fossero sufficienti per accusare al-Bashir dei massacri che hanno decimato la popolazione delle tribù Fur, Zagawa e Masalit. A Khartoum, proteste nelle strade, la TV di Stato, decisione neocolonialista. A questo argomento il Corriere della Sera dedica anche l'editoriale di prima pagina affidato a Bernard-Henri Lévy. Contro le anime belle, questo è il titolo. Dunque ci siamo, scrive Lévy. La Corte Penale Internazionale ha emesso il suo mandato di arresto contro il presidente sudanese Omar al-Bashir. Questa decisione è una grande notizia per tutti coloro che da anni assistevano impotenti ai massacri del Darfur. Questa decisione conferma con tutta l'autorità della legge, eccetto l'accusa di genocidio propriamente detto, i terribili sospetti che pesavano sul regime. Stigmatizza, isola e di conseguenza indebolisce uno Stato che era forte solo della nostra debolezza, della nostra impassibilità alle sofferenze che esso infliggeva e, in fondo, della nostra vigliaccheria rispetto al potere, petrolifero innanzitutto, che gli si attribuiva. Anche il Sole 24 Ore, peraltro, dedica all'argomento una certa visibilità in prima pagina, dedicandogli la fotonotizia, accompagnata da un commento di Alberto Negri, di cui vi leggiamo le prime righe. Ogni tanto, scrive Negri, in un soprassalto delle coscienze, tra uno zapping e l'altro, ci rincorrono delle immagini, una donna con il volto affilato che stringe un figlio con la testa grande e il torace scheletrico, occhi bianchi di paura che sbalzano dalla pelle scura, cadaveri che affondano nella sabbia, capanne sfondate, rade boscaglie affumicate dal napalm. E il Sudan, la nazione più grande dell'Africa, piegata da mezzo secolo di guerre. Da oggi anche il primo stato al mondo con un presidente in carica, Omar al-Bashir, colpito da un mandato d'arresto internazionale del Tribunale dell'Aia per crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Darfur. Appare difficile, scrive ancora Negri, che qualcuno si muova per arrestare Bashir sulla base della sentenza di una corte penale internazionale alla quale, va detto, non aderiscono Stati Uniti, Russia e Cina, Israele e neppure uno Stato arabo, tranne la Giordania. Eppure questo mandato d'arresto è un segnale forte che l'amministrazione Obama ha salutato con favore. Torniamo ai temi italiani. Sempre sul Sole 24 Ore leggiamo con una certa sorpresa, vista la situazione economica e le informazioni che normalmente ci vengono date al riguardo, la cosiddetta spalla di prima pagina, il titolo in alto a destra sulla prima pagina: le vacanze battono la congiuntura, Charme, Mauritius, Seychelles, verso il tutto esaurito a Pasqua. Vincenzo Chierchia e Massimiliano Del Barba scrivono: non c'è crisi per le vacanze, gli italiani quest'anno non rinunceranno a viaggiare a Pasqua, lo fa prevedere il volume richiesto di preventivi, più 30% rispetto allo scorso anno, che le agenzie di viaggio hanno ricevuto in queste settimane. I tour operator segnalano aumenti delle vendite fino al 15%, a dare ossigeno al settore sconti fino al 25-30% e offerte per le famiglie. Egitto, Sharm in testa, Stati Uniti, Caraibi, Oceano Indiano, Mauritius e Seychelles, le mete estere più gettonate. Bene le città d'arte, a pieni giri le crociere. Il Giornale interviene su un argomento di cui si è parlato a lungo nelle scorse settimane e riguarda il tema delle scuole e dei figli di immigrati. Scrive in prima pagina, titola in prima pagina del Giornale: così la sinistra crea le scuole ghetto. Ha detto no alle classi ponte e poi di nuovo no alle quote. Le conseguenze? Troppi stranieri in aula e i genitori italiani ritirano i figli. Così il prossimo anno nasceranno le prime elementari solo di immigrati. Scrive Enza Kusmai a pagina 3. La scuola è dignitosa, grande, allegra. Disegni e scritti all'ingresso decantano la multietnicità come ricchezza della società moderna. Benvenuti alla scuola elementare di via Paravia di Milano, che ha conquistato un primato nazionale. Aver confezionato per il prossimo anno un'intera classe di soli stranieri. E i bambini italiani della zona dove sono finiti? Si chiede la Kusmai. Si sono iscritti in altre scuole, dove la presenza degli immigrati è meno schiacciante. All'argomento il Giornale dedica anche un commento che parte anch'esso dalla prima pagina di Mario Giordano. Adesso le classi ghetto ci sono davvero. Colpa dei rozzi leghisti, degli insensibili lombard? Colpa del cuore celtico di qualche amministratore cresciuto a Pane, Gorgonzola e Padania? Ma che, al contrario, le classi ghetto nascono grazie al buonismo della sinistra, al politicamente corretto in salsa rossa, alle neni ipocrite in stile Livia Lacrimans Turco e Rura Gebreal. E mi piacerebbe vedere che cosa dicono adesso questi esemplari del falso in rilancio, dietro quale bugie andranno a nascondersi per spiegare il loro clamoroso autogol. Dicevano di no alle classi ponte? Perfetto, scrive Giordano. Adesso abbiamo le classi speciali. L'Unità affronta invece in prima pagina il drammatico, spesso drammatico e comunque molto delicato e complesso tema dei precari. In prima pagina c'è un collage di fotografie, il titolo è Un'esistenza precaria, e a questo argomento dedica il suo editoriale di pagina 2, la direttrice dell'unità Concita De Gregorio. Un orizzonte di un solo giorno e ogni giorno far finta di niente. Faccio come se non fosse così, una bugia, ma mi serve per vivere. Congelati in un'adolescenza senza fine, vivo da studentessa, poi mi guardo allo specchio e penso, sono vecchia, la mia immagine riflessa non corrisponde alla mia vita. Non si sa con esattezza quanti siano i precari in Italia, scrive Concita De Gregorio. 6 milioni secondo la CGIL, la metà, replica il governo. Una guerra di cifre che ricorda quella del conto dei manifestanti in piazza. Fa rabbia, fa paura. Ieri 10 di loro sono venuti in redazione per raccontare cosa sia la vita dentro un orizzonte breve, come si conviva con l'assenza di un'idea di futuro, come cambi il carattere, il senso di responsabilità, persino la salute. Oggi è un giorno particolare per il Parlamento italiano, scompaiono i cosiddetti pianisti, cioè scompare la possibilità di votare per conto di un parlamentare assente. È una battaglia, va detto, una battaglia di civiltà che il presidente della Camera Gianfranco Fini ha condotto da sempre con grande costanza, con grande forza di volontà. Finalmente sembra esserci riuscito, sia pure tra l'incredulità generale. All'argomento dedica un commento in prima pagina, il secolo XIX. Il titolo è Con l'impronta digitale, addio ai deputati pianisti. Leggiamo il pezzo di Angelo Bocconetti. Un po' dopo mezzogiorno di ieri, un altro vocabolo del dizionario politico della Prima Repubblica è stato cancellato. Trappeone. Il parlamentare che ha poco peso politico ed è considerato solo perché deve stare in aula a votare, e pompiere, chi cerca di trovare una mediazione durante una polemica o un dibattito, non c'è più la parola pianista. Con questo termine, ricorda Bocconetti, si indicava il deputato che, usando la sua scheda elettronica e quella di un collega assente dall'aula, votava da due diverse postazioni con entrambe le mani, muovendosi sullo scranno proprio come fa un grande pianista durante un concerto. Ieri è iniziata ufficialmente l'era delle impronte digitali per i deputati, che da oggi voteranno inserendo il proprio indice in un lettore ottico che attiverà il meccanismo di voto elettronico solo dopo aver verificato l'impronta. In teoria. In pratica c'è ancora qualcosa da mettere a punto. Innanzitutto, molti deputati devono ancora adeguarsi. Quasi un centinaio non si sono sottoposti al prelievo delle impronte, tra questi il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma c'è un drappello di 19 irriducibili, ricorda Bocconetti sul secolo XIX, che non hanno proprio intenzione di farlo, per principio. E moltissimi di questi dissenzienti sono leghisti, dal che ieri a Montecitorio girava la battuta feroce di un esponente dell'opposizione. Le impronte dei bambini immigrati sì, le loro no. Ma la pattuglia è talmente ridotta che i questori d'aula avranno buon gioco a osservarli durante il voto con il vecchio sistema, una tesserina tipo bancomat inserita in un lettore. Tornare a temi più strettamente di cronaca economica, economica ma in realtà che poi ci riguarda tutti quanti nella nostra vita quotidiana, Repubblica a pagina 23. Dedica ampio spazio all'incremento della presenza di Lufthansa nel settore aereo italiano. Milano-Roma anche con Lufthansa decolla la sfida al monopolio all'Italia. Da Malpensa 4 voli al giorno, titola Repubblica, ma il vero obiettivo è Linate. Scrive Ettore Livini. Lufthansa alza la posta nella sfida con Alitalia e attacca la Magliana è il quartiere romano dove ha sede Alitalia, sul suo mercato più ricco, quello domestico. Il vettore tedesco lancerà dal prossimo aprile una rete di 3 collegamenti nazionali nel bel paese, da Milano Malpensa, aspirante hub di Francoforte, verso Roma, con 4 collegamenti al giorno, Napoli 2, Bari 1. Da inizio aprile posizionerà nello scalo lombardo, dove opera già su 8 città europee, 9 aerei, il 50% in più del previsto. Abbiamo deciso di accelerare dopo gli ottimi risultati di Lufthansa Italia, spiega Karl Ulrich Garnath, consigliere del gruppo. I passeggeri continuano a crescere, i nostri aerei sono più puntuali in Italia che in Germania. Nel primo mese di servizio, ricorda Livini nell'articolo di Repubblica, la società ha trasportato da Malpensa 81.000 passeggeri contro i 90.000 di Alitalia e il suo Milano-Parigi, unica tratta confrontabile, viaggia con aerei pieni al 57% contro il 45% della rivale. Il Corriere della Sera a pagina 21 dedica ampio spazio a un argomento che proprio il Corriere ha contribuito a sollevare nei giorni scorsi e che va direttamente a, come dire, a impattare con il passato dei passato diciamo più problematico italiano, i tempi del terrorismo e lo strascico di polemiche che ogni volta questi argomenti ripropongono nel paese. Scrive il titolo del Corriere della Sera: lo Stato non paghi il film sui terroristi. A fondo del magistrato degli anni di piombo Spataro, l'ex prima linea Seggio non si è mai pentito. Polemica sul finanziamento da 1,5 milioni del Ministero della Cultura. Il Comune di Milano congela il patrocinio. Il film, tratto dall'autobiografia di Sergio Seggio, avrà protagonisti Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno. Scrive Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera. È un sussulto civile contro un'offesa alla memoria. Protestano i familiari delle vittime, si indigna il procuratore della Repubblica Armando Spataro. Si può dare il patrocinio a un film ispirato al libro di un terrorista di prima linea che ha ammazzato il prossimo in nome di un'ideologia sbagliata? Il Ministero della Cultura l'ha fatto, con qualche correzione sulla sceneggiatura e un generoso assegno di Stato, 1,5 milioni di euro. Il Comune di Milano è andato a ruota, via libera la richiesta di esentare dalle spese la casa di produzione per le scene girate in città e sponsorizzazione sui manifesti pubblicitari. Filava tutto liscio, ricorda il Corriere della Sera, fino a 3 giorni fa. La delibera del Comune sembrava un atto dovuto, poi il caso è finito sulle pagine del Corriere, la riservatezza è saltata. Il figlio di un giudice assassinato ha scritto una lettera umana e toccante. Milano è la mia città. Città della mia famiglia, dei miei bambini, e io mi chiedo come può patrocinare un film ispirato alla storia di chi ha deciso di distruggere cinicamente la vita di un uomo e pretende di spiegarci le ragioni della sua impresa. Scrive ancora il Corriere: la prima linea, film ispirato all'autobiografia dell'ex terrorista Sergio Seggio e alle sue poco nobili imprese, riapre antiche ferite sui cattivi maestri e sull'opportunità di riscrivere la storia da una parte sola. Ci sono Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno nel ruolo dei protagonisti, Sergio e Susanna Ronconi. Così avremo anche il terrorista Figo e Belloccio con l'avallo del Ministero della Cultura. Una fiction invece della ricostruzione storica, dice Benedetta Tobagi, figlia di Walter, il giornalista del Corriere assassinato nel 1980 da un commando che aspirava a entrare appunto in prima linea. Fanno bene a protestare i parenti delle vittime, spiega Armando Spataro, coordinatore del Dipartimento Antiterrorismo della Procura di Milano. Anzi, penso che altri avrebbero dovuto sentire prima il dovere di sollevare la questione, già quando il ministro Bondi deliberò la sovvenzione pubblica, riconoscendo al libro di Seggio una qualche dignità culturale. Mi sembra, scrive sul Corriere della Sera Spataro, che si apra con una dedica ai figli dei compagni chiamati a ricordare con quale coraggio e purezza di ideali i loro genitori avrebbero combattuto per una società più giusta. Spero che Seggio ricordi a quanti innocenti lui stesso e i suoi compagni hanno sparato in testa mentre accompagnavano i loro figli a scuola o aspettavano di entrare in un'aula di università per insegnare diritto ai giovani. Chiudo questa rassegna stampa con due segnalazioni. Una chiacchierata sul Corriere della Sera con il critico letterario Harold Bloom a pagina 40 e un bel reportage di Avvenire sul muro che l'India sta costruendo intorno al Bangladesh per isolare il paese. Grazie.